buongiorno. Buongiorno a voi, grazie. La professoressa Graziottina è direttore del Centro di Ginecologia e Sessuologia Medica del San Raffaele Resnati di Milano. Voi siete abituati a conoscerla nel suo ruolo ufficiale, quindi di ginecologa e sessuologa, ma in questi appuntamenti del mese di agosto io ho trasformato in sensuologa ufficiale della vostra estate. Professoressa, un ruolo impegnativo. Ma è molto stimolante, poi a me piace moltissimo capire, e la medicina è meravigliosa per quello, perché ci consente di andare alle radici della nostra esistenza, e adoro la neurobiologia perché ci consente di capire cosa succede in quel mondo meraviglioso, complesso, affascinante che è il nostro cervello. I sensi sono le finestre che il nostro cervello apre sul mondo, e quindi anche conoscere le grandi potenzialità dei nostri sensi è un'avventura bellissima, e mi piace molto condividerla, e le sono molto grata per questo. I sensi alla riscoperta di un'affettività e di un benessere a 360 gradi. Spesso i nostri sensi sono un po' addormentati o noi non li conosciamo a fondo. Invece con il suo aiuto cercheremo puntata per puntata di riscoprirne uno. Oggi parliamo di olfatto. La scorsa settimana abbiamo dedicato spazio al tatto. Anche l'olfatto è uno dei sensi più, direi, appiattiti, non so se il termine va bene, della nostra vita moderna. Assolutamente sì. Lei pensi che il nostro cervello, il nostro olfatto, ha la capacità di discriminare più di 40.000 odori. Però se noi chiediamo a una persona quanti odori sa riconoscere, probabilmente ne direbbe 20-30. E questa è la prima osservazione. La seconda, pensi che le donne hanno più naso degli uomini, in altri termini sono capaci di discriminare molto di più gli odori, e questo solo però in età fertile, con un picco nel momento dell'ovulazione. Dopo la menopausa invece la loro capacità discriminante diventa uguale a quella degli uomini, e questo spiega perché le donne siano prescelte dalle industrie del profumo proprio come nasi, perché c'è questa capacità biologica in più che ha una finalità importantissima. Perché il picco al momento dell'ovulazione? Proprio perché al momento dell'ovulazione ci sia la massima recettività della donna ai feromoni maschili, ossia queste sostanze sessualmente attraenti che ci dicono qual è la massima predittività, cioè la massima probabilità di successo riproduttivo. Questo è un aspetto interessante. Ma l'altro, che riguarda l'olfatto in senso più ampio, è che anche nella nostra specie, che viene definita microsmatica, cioè con una piccola parte di rinencefalo, quella parte del cervello appunto più arcaica, che è potentemente attivata dagli odori, bene, anche nella nostra specie, che c'era piccolo rispetto agli animali macrosmatici, nei quali cioè l'olfatto è il senso dominante, stiamo scoprendo che in realtà questo senso negletto, come lei dice, va bene, è in realtà importantissimo anche per la vita affettiva. Per esempio, nel bambino l'odore è il primo segno di unicità con cui il piccolo riconosce la madre, molto prima dello sguardo, del sorriso o della voce. Un po' come succede negli animali. Assolutamente sì, infatti gli studi, c'è per esempio un grandissimo ricercatore che è Jacques Panksepp, il quale ha dedicato tutta la sua vita allo studio delle basi neuroscientifiche degli affetti e delle emozioni, e ha dimostrato una grande costanza, per esempio, delle vie affettive nella scala evolutiva. D'altra parte, può essere uno scacco narcisistico per noi, ma basti pensare che tra noi è errato, cioè il 90% dei geni in comune, e con i primati, cioè con le scimmie, addirittura il 98%. Quindi questi sensi, il senso dell'olfatto in particolare, che modula tutta la parte della sopravvivenza individuale e della specie, ha una grande costanza, come si diceva, nella scala evolutiva. Tornando ai nostri bimbi, l'olfatto, l'odore, ha un grande potere calmante. Per esempio, se si mette vicino al bambino quando la mamma va via al lavoro al mattino, al bambino piccolo, la camicia da notte della mamma impregnata dell'odore della madre, questo ha un profondo effetto calmante sul piccolo, un bambino che naturalmente abbia mangiato, sia stato lavato, cambiato, eccetera. A quel punto l'odore della mamma lo calma. Perché? Perché va a stimolare questa, a calmare meglio la via del panico con angoscia di separazione, che si attiva invece quando non sente più l'odore della madre. Quindi sono degli aspetti interessantissimi e importantissimi. Attenzione, è importante che l'odore della mamma sia di una mamma calma, serena. Perché? Perché i feromoni, che noi sempre citiamo come feromoni sessualmente attraenti, sono in realtà una classe di sostanze chimiche efficace all'interno di una stessa specie, che mediano però tutti i comportamenti socialmente rilevanti. Per esempio, abbiamo anche feromoni di paura, di ansia. Ecco che allora, se la mamma è tesa, nervosa, è meglio che non lasci la sua camicia da notte vicino al bambino, se no i nonni che devono accudire questo bambino si disperano, perché il bambino invece che rilassarsi piange. Assolutamente, e mi perdoni, l'ho interrotta, ma la cosa che volevo dire è questa, che quando noi siamo tesi, nervosi, l'odore in casa cambia, diventa un odore di allarme, un odore di tensione, per cui quando noi diciamo al bambino stai buono, stai bravo, con la voce irritata e soprattutto con un odore che ha le connotazioni dell'allarme, dell'aggressività, della paura o della rabbia, il bambino percepisce prima di tutto l'odore. L'odore di allarme piange ancora più forte, ancora più disperato. Quindi dovremmo avere una maggiore consapevolezza su quanto la nostra comunicazione, soprattutto con i bambini, avvenga attraverso il famoso linguaggio non verbale e in particolar modo attraverso questo senso trascurato ma importantissimo che è l'odore. L'odore parla di noi, parla del nostro stato emotivo, della nostra tranquillità, del nostro sorriso interiore oppure della nostra tensione, delle nostre preoccupazioni. Quindi riscoprire, per esempio, in vacanza un tempo di contatto con i nostri figli, una vicinanza che consenta loro di sentire il profumo della nostra pelle, una pelle rilassata, una pelle calma, una pelle che sta vivendo un momento di gioia insieme a loro, permette di ricostruire una mappa olfattiva fondamentale. Tra l'altro è importante ricordare questo, che l'olfatto ci consente di ricordare per immagini complesse, si dice. Cosa vuol dire? Che quando noi sentiamo un odore per esempio dello strudel che faceva la mamma, oppure dell'arrosto che faceva la nonna, o l'odore della casa che avevamo da piccoli, bene, quell'odore ha un profondissimo potenziale di rievocare una serie di immagini, come se attivassi immediatamente. È proprio un interruttore. Capita a volte di sentire un profumo, un odore e pensare subito, rivivere una determinata situazione. Non so se è capitato anche a lei, magari siamo in un vicino al mare, abbiamo questa sensazione di pienezza, di grande natura, e improvvisamente ecco c'è un odore, un profumo che forse non è proprio in sintonia con quello che stiamo vedendo, ma che riaccende un pensiero, proprio come un interruttore. E questo è meraviglioso, questa potenzialità dell'olfatto, che noi invece cerchiamo, soprattutto nella società di oggi, tutti gli odori cercano di essere, si coprono, no? Si mascherano, non deve esserci l'odore, e siamo un po' con tutti con gli odori, i profumi standardizzati, terrorizzati del cattivo odore. Sbaglio? Sì, in realtà noi abbiamo paura, diciamo, in una società molto conformista, per cui il profumo deve essere firmato, mentre quando invece ci si lava appropriatamente, tra l'altro con essenze poco profumate, cioè che non cambino l'odore della nostra pelle, e manteniamo invece la nostra identità olfattiva, questo ha una straordinaria importanza, di nuovo anche nella comunicazione intima all'interno della coppia. Quando si ama profondamente l'odore dell'altro, questo è un segnale predittivo fortissimo di ottima affinità sensuale, come lei diceva giustamente, e sessuale. E tra l'altro, siccome l'olfatto è un senso chimico, questo correla in genere anche con il gusto, che è l'altro senso chimico, per cui quando noi amiamo l'odore dell'altro, quasi di regola, se c'è una buona igiene orale ovviamente, amiamo anche il gusto dei suoi baci. Ma tornando all'olfatto, giustamente lei parlava di questo interruttore che accende un film, il film della nostra vita. Ecco che allora durante l'estate sarebbe importante, per esempio, anche riscoprire il piacere di ritrovare, diciamo, le nostre radici anche attraverso l'olfatto, per esempio riscoprendo, avendo più tempo, alcuni piatti che faceva appunto la mamma o la nonna, e quindi mettendo insieme quel profumo di casa, oppure riandando a fare delle passeggiate nei luoghi dell'infanzia, sempre che non siano stati naturalmente distrutti dalla cementificazione, oppure nei luoghi dove andavamo in vacanza, per esempio in montagna o al mare. In altre parole, una marcord dell'anima, perché questo, di nuovo, proprio perché l'olfatto ha questa grande potenza sull'umore, sul benessere e sulla memoria, questo ripercorre la nostra infanzia, le nostre radici, se sono state naturalmente positive e amorose, ci dà una sorta di bagaglio di felicità per l'autunno. Quindi sì, benissimo esplorare mete nuove, paesi esotici eccetera, ma anche non trascuriamo di dedicare almeno una parte delle vacanze al ritorno a casa, perché questo ha una capacità straordinaria di farci stare bene. Quindi facciamo scorta di profumi e di odori, ci serviranno per riaccendere i pensieri, i film delle nostre vacanze. Possiamo concludere così questa nostra tappa del viaggio attraverso i sensi. Professoressa Graziottin, io la ringrazio molto, le do appuntamento alla prossima settimana. Volentieri, presto. Invece per voi l'appuntamento è per domani, dopo il GR delle 11. Buonissima giornata da Nicoletta.